Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. L'estate, si sa, è spesso tempo di letture leggere, insomma di letture piacevoli sotto l'ombrellone o magari anche se si è rimasti a casa, perché no? Però questa, lo ammettiamo, insomma, è un'estate un po' particolare perché è stata segnata e segnata dalla paura degli attentati terroristici. E allora, riflettendo su questo argomento, fra i tanti libri pubblicati nell'ultimo anno su questo tema, ho pensato di riproporvi l'intervista ad Antoine Lehry, autore di Non avrete il mio odio, pubblicato in Italia da Corbaccio. La moglie di Lehry venne uccisa nell'attentato al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. A caldo, subito dopo quell'episodio, lui scrisse una lettera pubblica che fece il giro del mondo attraverso i social. Quella lettera, poi, a distanza di qualche mese, è diventata un libro. Un libro in cui Antoine Lehry descrive i 12 giorni dopo l'attentato in cui era morta la moglie. E sono stati 12 giorni vissuti accanto al figlio, che all'epoca aveva solo 17 mesi, al quale doveva comunicare in qualche modo che la madre non sarebbe più tornata a casa. È un libro dunque commovente, ma anche di grande intelligenza, perché Lehry fa una distinzione sottile ma significativa. Lui dice: non avrete il mio odio, lo dice rivolgendosi ai terroristi, perché insomma non posso sprecare le mie energie, la mia vita e quella di mio figlio odiando. Questo però non vuol dire che vi perdono. Sentiamo allora Lehry, che ci spiega perché ha deciso di ampliare il contenuto di quella lettera pubblica e farne un libro. In effetti, subito dopo aver scritto la lettera, questo flusso di parole che era nato in me è andato avanti. La corrente del ruscello che mi ha spinto a scrivere quella lettera ha continuato a fluire e in alcuni momenti si è persino rafforzata. In questo momento di scrittura ho trovato uno spazio di libertà immensa. Dopo quanto accaduto al Bataclan, mi sentivo confinato. Avevo l'impressione che ci fossero delle mura che si stringevano intorno a me. Avere dei momenti di libertà come questi è stato un grande sollievo per me. Detto in confidenza, la seconda ragione per cui ho deciso di estendere il discorso della lettera subito dopo è che questi momenti di libertà mi permettevano di ritrovarmi con il ricordo di Hélène, in un ambiente di scrittura magnifico fuori da quell'aria pesante, dove è possibile respirare a pieni polmoni tutto quello che provavo per lei. Quando si apre la porta della scrittura, si apre una porta su un mondo privo di ragione, perché privo di mura. Ho scritto il libro per vivere questi momenti. E l'horizon, c'est à vous de le dessiner dans cet endroit-là. E donc, je l'ai écrit pour ces moments-là, pour vivre ces moments-là. Ha deciso di raccontare questa storia, quindi anche la perdita di sua moglie nell'attentato al Bataclan, attraverso poi la vita quotidiana che lei ha condotto soprattutto con suo figlio, che all'epoca aveva 17 mesi, nei giorni seguenti l'attentato. Perché prendere questo punto di vista? En fait, je voulais être... Je voulais que les émotions soient vraies. Et je voulais que les émotions soient brutes. Je voulais réfléchir à la forme de comment les transmettre. In realtà si tratta solo dei 12 giorni successivi al Bataclan. Volevo che le emozioni fossero reali. Volevo che le emozioni fossero crude. Ho riflettuto su come trasmetterle. Non volevo che passassero attraverso dei filtri che le avrebbero snaturate. Avevo l'impressione che soffermandomi su questi 12 giorni, su qualche aneddoto, qualche momento, e scrivendolo, sarei riuscito a rimanere fedele alla realtà di ciò che ho vissuto in quei momenti. In verità, dovrei dire di una realtà che ho vissuto, perché ho scelto di che cosa parlare e che cosa tenere per me. Volevo raccontare direttamente ciò che sentivo dentro, ma per farlo dovevo riuscire a padroneggiare la scrittura. Se avessi trattato di argomenti più generali, avrei rischiato di perdere il controllo del discorso. Chi leggerà questo libro vedrà che il testo termina con un'apertura verso ciò che ci attende dopo. Être dans cette écriture, donc ça m'a paru la... Et puis parce que aussi ceux qui le liront verront comment le livre se termine, le livre se termine sur ce qui ouvre le reste de ce qui nous attend, quoi. Trovo che questo libro sia veramente emozionante proprio perché è vero, proprio perché è reale, scritto anche con una scrittura molto controllata. pieno di emozioni, ci sono tante cose che ho segnato, per esempio il momento in cui lei si pone il problema come far capire la morte della mamma a un bambino di 17 mesi e lei scrive bisogna dirglielo adesso, ma come? Mamma, papà, ciuccio, Melville dice soltanto tre parole ma capisce tutto. Questa è una delle parti che mi ha toccato di più. Come suo figlio, o meglio come lei è riuscito a far comprendere l'assenza della madre? En fait, à cet âge-là, les enfants sont restés 9 mois dans le ventre de leur maman. Beh, in effetti, a quell'età i bambini sono rimasti per 9 mesi nel ventre materno. Hanno viaggiato con la madre e sentito tutto ciò che il suo cuore ha raccontato loro. Hanno sentito i battiti del cuore, la respirazione, la voce e il tono della voce. Hanno questa affinità sensoriale molto fisica, che è ancora molto sviluppata a 17 mesi. Credo Melville abbia capito tutto, ma non so se sia riuscito a concettualizzarlo. Ciò che ho fatto è stato stringerlo a me quando gliene ho parlato, affinché lui sentisse il tono della mia voce, i battiti del mio cuore accelerati, a causa del momento difficile. Volevo che capisse la mia tristezza. Ho pianto molto quando gliene ho parlato, perché gli ho mostrato delle foto di Hélène, così che sapesse di chi stavamo parlando. Abbiamo ascoltato la musica che ascoltava Hélène. Volevo che fossero tutti questi indizi fisici a esprimere il mio stato emozionale. Melville ha pianto molto, l'ho sentito molto agitato, ma era anche dovuto al fatto che c'erano molte persone in casa, perché c'era molto movimento. In seguito ha cominciato a calmarsi. Adesso continuiamo a parlarne perché, oltre alle sensazioni, anche le parole sono importanti e così lui può conoscere la sua mamma. Il aura une maman, quoi. Il a une maman. Donc les mots sont importants, mais ouais, là ça passait par le contact physique, par la sensation. Il nucleo fondamentale di questo libro, che poi anche era della lettera, non avrete il mio odio. Apparentemente si potrebbe pensare che lei abbia perdonato i terroristi, invece no, perché è molto chiaro in questo. Dice, a un certo punto scrive, pochi comprendono perché sorvolo velocemente sulla situazione in cui Hélène è stata uccisa. Mi domandano se ho dimenticato o perdonato. Io non perdono niente, non dimentico niente, non sorvolo su niente e soprattutto non velocemente. È una sottile differenza quella fra non avrete il mio odio e il perdono. Ce la può spiegare? C'è una question très intéressante e très compliqué di répondre. C'è compliqué parce que c'est ténu. È una domanda molto interessante e complessa perché riguarda noi. La differenza tra le due è che io mi auguro che i terroristi siano puniti e che gli stati europei e il resto del mondo combattano contro il terrorismo. Ma voglio che lo affrontino con gli occhi della democrazia. La differenza è sottile, ma se avessi risposto all'odio con l'odio, sarebbe stato come chiedere una vendetta del tipo occhio per occhio, dente per dente, mentre io credo nella forza della democrazia. I terroristi pensano che i nostri siano stati deboli. Lo pensavano anche i nazisti, a proposito delle democrazie europee e di quella americana, ma alla fine sono stati loro ad aver perso. Io penso che la democrazia sia forte e che le sue armi siano il diritto e la giustizia. Questa società organizzata non può abbandonarsi alla facilità della reazione virile. Non è che voglia rispondere al terrorismo con i fiori, ma penso che dobbiamo usare le nostre armi. Se usiamo le loro, diventiamo come loro. Je pense que la nuance elle est là, c'est que moi je veux pas répondre au terrorisme avec des fleurs. Par contre, je veux qu'on réponde au terrorisme avec nos armes à nous. Si on utilise leurs armes, on devient comme eux. Io vorrei avere però il suo proprio punto di vista personale, non solo quello, diciamo, politico di come rispondere al terrorismo, perché quello che ho percepito dal suo libro è che se lei o suo figlio iniziaste ad odiare i terroristi, perdereste una parte della bellezza della vostra vita, perdereste energie. A un certo punto lei scrive, per tutta la vita questo ragazzo vi farà l'affronto di essere felice e libero. No, non avrete nemmeno il suo odio. E poi parla del, se vi odiassi vi farei un regalo. Quindi è un modo anche per proteggere se stesso, il non odiare, ma nello stesso tempo il non perdonare. Oui, mais de toute façon, en fait, Cet état d'esprit, le premier but, c'est d'abord de nous protéger de ça. Sì, certo. L'obiettivo di questa risposta era quello di proteggersi. Bisogna rendersi conto che l'attentato al Bataclan è stato un evento collettivo. Quando è successo, tutti ne parlavano, specie in mia presenza, perché Hélène era al Bataclan. Il sabato mattina io sentivo l'esigenza di dover dire qualcosa a mio figlio, di dirgli «Mamma oggi non è qui», perché non sapevamo ancora che cosa le fosse successo. Ma tuo papà c'è e ci sarà per tutta la vita. Potrai sempre contare su tuo padre. Gli ho detto che avremmo ricostruito una cerchia familiare costituita solo da noi due, ma anche che sarebbe stata una famiglia forte, solida e soprattutto felice. Il primo obiettivo, quindi, è stato quello di proteggerci, di non lasciarli entrare nella nostra vita. Verso l'esterno, però, era come comunicare un sentimento di disapprovazione e condanna, emerso quando ho avvertito il germogliare di un sentimento di odio in me, sul quale poi ho riflettuto e che non ho voluto far entrare nella mia vita. L'energia che stava dando vita all'odio l'ho trasformata in altro. La mia prima vera funzione di questa mia risposta era quella di proteggerci. Non les regarder, leur dire non. Mais la vraie fonction, c'était celle-là. C'était nous protéger. Questo era Antoine Leyri, autore del libro testimonianza Non avrete il mio odio, pubblicato in Italia da Corbaccio. Una breve pausa, poi torneremo con Diego Di Silva per parlare di amore e tradimento. Il cacciatore di libri. Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Cambiamo decisamente tono, insomma, parliamo di un romanzo di amore e tradimento. Si intitola Terapia di coppie per amanti, scritto da Diego Di Silva, pubblicato da Einaudi. Protagonista è una coppia clandestina. Viviane e Modesto sono entrambi sposati con altre persone, ma hanno appunto questa relazione molto intensa. È solo una passione o è amore vero? Allora lo scrittore dà la parola, ora lui, ora lei, per far vedere insomma al lettore in che modo Viviana e Modesto interpretano questa relazione, a volte in modo un po' diverso. Viviana sembra più determinata ed è disposta a cambiare vita per questo nuovo amore. Modesto invece sembra voler rimanere nella posizione dell'amante. Per fare chiarezza, la coppia clandestina si rivolgerà ad un terapista. Ecco come Diego De Silva si è immedesimato nei due punti di vista, appunto a volte diversi, degli amanti. Intanto io non credo che ne esista nessuna storia d'amore oggettiva, cioè ognuno di noi in una storia d'amore vive la sua, nel senso che noi quando parliamo con i nostri amici raccontiamo una versione, voi quando state con le vostre ne raccontate un'altra e poi insieme ci mettiamo d'accordo su una versione, diciamo, da prima serata di Rai 1. Sempre un compromesso, il racconto oggettivo di una storia, per cui mi piaceva l'idea che mettendomi nello sguardo di entrambi a capitoli alterni si cogliesse anche la nevrosi, no? Di un rapporto di coppia quando l'amore si instaura e diventa qualcosa di importante, quasi al di sopra dei due che non sanno cosa fare, non sanno cosa essere, dove mandare a sbattere questa nave. All'inizio, diciamo, soprattutto lui la vive come classica relazione extraconiugale, pensando di poterla finire lì, insomma, che non abbia poi conseguenze sulla sua vita emotiva e così via. Lei invece già dall'inizio sembra invece nutrire qualche aspettativa in più, è così? Sì, questo credo che sia una caratteristica più femminile, questo fiutare l'idea dell'importanza di una storia che potrebbe avere un peso maggiore di quello che ci si aspetta all'inizio. Questo non perché le donne, come dire, vivano più intensamente o più seriamente delle storie che le capitano, ma semplicemente perché quando poi l'amore scoppia, e tra loro scoppia abbastanza presto, scoppia anche un po', loro se ne accorgono quando lui è già grande, diciamo. Viviana lo capisce un po' prima, questo credo che sia una prerogativa femminile rispetto a noi. No? Infatti all'inizio soprattutto lui mette in evidenza quali sono i vantaggi di una storia extraconiugale, cioè il fatto poi di non dover tornare a casa, di non dover discutere dei figli, di non fare questo, di non fare quest'altro, però a un certo punto dice neanche quando siamo insieme riesco ad essere felice. Perché? Quello che dice Viviana. Scusa, perdonami. Lo dice Viviana e no, va benissimo lo stesso. Lo dice lei perché quando realizza che l'amore è diventato, ha preso possesso del rapporto, è quella per esempio una gran privazione, l'idea del tempo, dello spazio, pensare perché se ne va, perché non sta con me, perché non ho tutto il tempo a disposizione che vorrei avere. Quella è una sintomatologia tipica di un amore che chiede e che vuole tutto, che l'amore poi quando arriva vuole tutto, non si accontenta del part time, vuole il full time. E però anche Viviana è una donna impegnata, diciamo, non è la classica storia di una donna single che ha una relazione con un uomo sposato. Lei a un certo punto dice: lo vedo per dimenticarlo, per non pensare più a quanto mi complichi la vita amarlo. Cioè, questo amore nella vita di Viviana e Modesto è proprio una bomba che esplode. Sì, questo tipo di amore ha molto a che vedere con il consumo di stupefacenti, no? Cioè, nel senso, un tossicomane sa perfettamente che nel momento in cui si droga si sta facendo del male, ma in quell'attimo, per quell'attimo, è capace di sacrificare tutto il resto. Allo stesso modo l'incontro amoroso di due amanti che hanno il tempo parcellizzato, costruisce l'inganno che tutto si risolve allora e chi se ne frega del resto. Poi in realtà non è così, perché poi la vita ti aspetta, 5 minuti dopo ti aspetta e sprofondi in un abisso di mancanza e allora ti domandi: ma perché non do a questa storia lo spazio che meriterebbe, no? Infatti loro due finiscono per rimanere coinvolti proprio emotivamente in modo pesante, tant'è vero che, riprendendo il titolo del libro Terapia di coppia per amanti, a un certo punto decidono proprio di rivolgersi ad un terapeuta per capire un po' che direzione prendere. Ora, il titolo, così come l'immagine, può far anche sorridere, no? Dice: ma come, due amanti devono andare da un terapista di coppia? Però in realtà c'è una grande verità dietro, perché alla fine hanno bisogno di capire se stessi e capire che strada devono prendere. Sì, ma alla fine la terapia è di coppia, non è terapia, non c'è scritto terapia di marito e moglie. Invece noi siamo abituati a pensare alla coppia sempre in termini istituzionali. Noi viviamo in un mondo molto complesso anche dal punto di vista dei sentimenti, della gestione del tempo. È molto difficile, guardandosi intorno, trovare delle coppie sposate che rimangono insieme. Quelle che lo fanno, spesso tu gli senti dire: ma noi resistiamo, no? Quasi come se loro ti sbattessero in faccia un sacrificio. Ma non è così la storia, non è così che dovrebbe andare. Non dovrebbe essere una sfida al tempo. L'amore dovrebbe essere felicità e la coppia dovrebbe essere costruzione di una felicità che non deve resistere al tempo, semplicemente vive, no? E allora la terapia di coppia, se una coppia è problematica, perché non dovrebbe essere possibile? È quello che mi sono domandato ed è la ragione per cui questo terapeuta, che si chiama Vittorio Malavolta, è uno molto figo, molto ciuffettoso, molto... Che ha anche i suoi problemi, diciamo. Appunto, quando vanno da lui lo beccano in un momento in cui ha un vissuto sentimentale ancora più sfasciato del loro, quindi la cosa diventa anche un po' ridicola a quel punto, no? Secondo te, a questo punto, l'amore è qualcosa che può coinvolgere le persone indipendentemente dall'età in cui si trovano a vivere quella storia? Ma io credo proprio di sì. La vita, come l'amore, gioca tutto sull'incontro. Dipende essenzialmente da questo. E quando nell'altro da te pensi di trovare qualche cosa che ti appartiene, perché poi questo è l'amore, no? È un riconoscimento. Non è mai un incontro con la diversità, è un incontro con una parte di te che pensi di ritrovare. E ti domandi esattamente: che cosa sa questa persona di me? Me lo deve dire? Questo è l'amore. E questa è una cosa che può succedere, ovviamente. Dopodiché bisogna saperlo gestire a seconda dell'età, insomma. Una cosa di cui si è persa molto la contezza e anche la dignità in questi tempi, no? Abbiamo onorevoli esempi da questo punto di vista. All'inizio del libro tu parli delle coppie, diciamo, di amanti, facendo riferimento a quello che pensa un po' Modesto, cioè come quasi come fosse un'accezione negativa. Invece tu la fai diventare una normalità, questo amore fra una coppia, diciamo, extraconiugale. Alla fine dobbiamo abituarci a questa normalità. Ma quello è un tipo di condizione molto nevrotica, difficilissima da gestire. La doppia vita è una condizione molto faticosa, molto nevrotica e molto una cosa che può sfasciarti dal punto di vista proprio neurologico. Quindi augurarsela, dire proprio di no. Ci ho detto, la vita è fatta anche di, appunto, come dicevo prima, di incontri, e ci si barcamena come si può. Il problema è che quando, ripeto, l'amore prende il sopravvento diventa difficilissimo, perché la battaglia è tra una componente razionale che ti porterebbe ad una soluzione possibile, quando tu in realtà sei nel regno dell'irrazionale e della contraddizione, che è l'amore. E quella è una battaglia che non vinci, puoi soltanto soffrire. E quindi c'è soltanto da riuscire a prendere il problema per le corna e spingere la vita in una direzione, rischiando. Ma quanti sono disposti a farlo? Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. E questo era Diego De Silva, autore di Terapia di coppia per amanti, pubblicato da Einaudi. È tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate. Lo ricordiamo che va in onda il sabato e la domenica alle 10 del mattino, poi come sempre il Cacciatore di Libri ha il suo appuntamento fisso il sabato alle 6.30 per i mattinieri e alle 22 in replica. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, come sempre a tutti una buona estate, ma soprattutto una buona lettura da Alessandra Tedesco. So tutto delle tue magie e tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Tempo passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggiore insidia che amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin, toujours, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.